oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Buongiorno intanto, buongiorno Francesco, buongiorno. Buongiorno Willy che come al solito buongiorno cerca di metterci sani come buon auspicio, ma ne ha fame oggi mi sa Willy, cosa ti devo dire? E oltre alla crisi parliamone, abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di adolescenza, di disagi adolescenziali. Oggi partiamo da una notizia che è uscita ieri sul Corriere della Sera e Corriere della Sera Bologna, che racconta di un disagio, ma racconta anche di un tentativo di superarlo, questo disagio, un piccolo tentativo, e adesso lo spieghiamo anche coi numeri, che è piccolo, però intanto c'è. Allora, il titolo, l'articolo era questo: boom disoccupazione in 90.000 senza lavoro, un'impennata del 5,9% rispetto a fine 2012 e addirittura del 116% rispetto a fine 2008, quindi percentuali inquietanti. Un esercito di 90.000 disoccupati si prepara a riscaldare l'autunno bolognese. In base ai dati diffusi dalla CISL, la Bologna e provincia, la quota di persone senza lavoro ha raggiunto quota 89.758 unità. Questo è quello che sta venendo fuori praticamente dai dati, e stiamo parlando di quelle persone che non sono né nel circuito studi, perché ho terminato o perché abbandonato, e invece non sono nemmeno nel circuito lavorativo. Intanto partiamo da questo, a descrivere questo limbo, che cosa significa soprattutto per un giovane che quindi ha anche, se vuoi, tutte le insicurezze, le paure di affrontare un mondo che non gli dà una prospettiva in un qualche modo. Sì, direi che siamo in una specie di deserto nel quale si fa fatica a intravedere qualche coordinata per orientarsi. Secondo la mia impressione è una delle situazioni più drammatiche, perché abbiamo parlato del precariato, abbiamo parlato dei lavoretti, abbiamo parlato della disoccupazione, abbiamo parlato della cassa integrazione, eccetera. Qui, come dire, non si intravede nessuna possibilità, cioè il corso di studi è finito, gli studi sono finiti, ci sarebbe da cominciare la vita adulta, la vita lavorativa, così eccetera, e in realtà non c'è speranza, e in realtà c'è un vuoto di prospettiva. Tra l'altro stiamo parlando di una fascia di età che va dai 15 ai 29 anni, quindi esatto, proprio esatto, formazione anche esatto, come beh, persona. Sì, certo, si tratta proprio dei giovani. Si tratta proprio dei giovani. Io, come dire, da inguaribile ottimista, vorrei dire che sospetto che anche in questo gruppo di persone che non studiano più e non lavorano ancora, così eccetera, ci sono tanti che si divertono come pazzi. Cioè, come dire, non vorrei che vedessimo solo l'aspetto così negativo, però purtroppo si divertono, ma in modo, secondo me, forse un pochino disperato, cioè come quelli che non sanno che prospettive avranno. La cosa bella sarebbe che questa zona del mondo della vita fosse invece una occasione per un tempo, non come una volta si diceva un tempo libero, tempo di rivoluzione, no, ma che fosse un tempo invece, un tempo di costruzione, di un lavoro veramente umano, Cioè che in questi momenti, se per esempio ci si chiedesse che senso ha il lavoro, quale lavoro, non tutti i lavori vanno bene, quale lavoro è per costruire quale mondo, così eccetera. Non lo so, può darsi che in questa zona andrebbe studiata questa zona. Secondo me c'è un vuoto anche di approfondimento, di conoscenze, andrebbe studiata questa. Mi verrebbe da farti un'obiezione. Io mi ricordo quando avevo 14 anni, quindi un anno in meno di questa fascia, dai 15 ai 29, e non, era difficile addirittura scegliere che scuola andare a fare, perché non capivi, cioè c'era questa nebulosa che non, e più che altro non avevi gli strumenti. Quindi io sono d'accordo con te nel senso astratto e nel senso teorico, però mi domando, un ragazzo, una ragazza dai 15 ai 20, 21, facciamo, in quella fascia di età lì, che strumenti ha per fare questo, quello che dici tu? Perché comunque servono anche delle acquisizioni di sé che forse non ci sono ancora o non sono ancora state date proprio perché mancano delle esperienze. Sì, sì, sì, questo è giustissimo, ma io non intendevo riferirmi a una ricerca individuale, mi riferivo a una ricerca sociale, di comunità, in cui, cioè, per esempio, in queste fasce d'età si potrebbe essere affiancati, cioè non bisognerebbe farlo da soli, non bisognerebbe farlo né da soli né solo insieme agli altri giovani che hanno la stessa condizione, ma dovrebbe essere, come dire, uno sforzo sociale, uno sforzo della comunità in cui si vive. Quindi, cioè, come dire, mentre ci sono fasce d'età in cui il lavoro è già in qualche modo avviato, le scelte lavorative sono fatte, così eccetera, e ci sono altri problemi, e il tempo per chiedersi certe cose, che poi non c'è più il tempo per chiedersele, e potrebbe essere proprio questo, potrebbe essere questo tempo qui. Ecco, però bisognerebbe, per esempio, che ci fosse una grande attenzione per questa fascia di età, perché fosse possibile, per esempio, non dovrebbero esserci sacche di bisognosità estrema, non dovrebbero esserci troppe umiliazioni, per cui per esempio l'idea di un minimo salario di cittadinanza potrebbe essere una soluzione in questa situazione qui. Cioè, una situazione in cui magari si deve aspettare qualche anno, ma un conto è aspettare che il mercato si riprenda e che qualche ingegnere dell'economia di mercato scogiti qualcosa per costruire un lavoro il più fruttatorio possibile, no? E un altro conto è che un'intera generazione si impegni, aiutata naturalmente dalla comunità nella quale vive, per far sì che il prossimo lavoro sia un lavoro umano, un lavoro sensato, un lavoro per costruire un mondo migliore, per esempio un lavoro, non so, per mettere a posto il territorio, per aggiustare le scuole, per ispirare processi e movimenti di solidarietà collettiva, cioè che in definitiva che fosse un lavoro per connettersi con gli altri giovani europei, per promuovere processi di integrazione, insomma qualcosa di sensato, non un lavoro purché sia. Ci torniamo, adesso facciamo uno stacchettino musicale. Io intanto vorrei chiedere a tutti di collaborare con noi come al solito, se siete in questa fascia di età dai 15 ai 29 anni con questo tipo di disagio, di situazione, chiamiamola così, addirittura c'è l'acronimo come in ogni disagio che si rispetti, e non solo, ormai c'è l'abitudine a fare l'acronimo. L'acronimo di questa situazione è il NET, ovvero Not in Education, Employment or Training, quindi né in percorso educativo né in percorso di impiego né di praticantato né di formazione, di addestramento. Esatto. E se siete dei NEET, allora e raccontateci il perché, il per come, che situazione avete, come vi ci siete trovati, oppure se siete genitori di persone che hanno questo tipo di, così ci andiamo a confrontare anche su situazioni concrete magari. E che fa un NEET. Esatto, e che fa un NEET, e che anche quali pensieri ha un NEET, per esempio. E ce lo potete dire tramite SMS al 333 180 94 94, oppure intervenendo telefonicamente in trasmissione allo 051 34 64 58, e ricordo anche la mail amicidirivivere@gmail.com. Adesso facciamo un tributo e un saluto e un rest in peace e un augurio di buon viaggio a Paco. Ok. Saluto a Paco De Lucia, che accompagna anche una parte della nostra trasmissione, tanto sempre con la sua musica sarà con noi, quindi certo. Gli auguriamo davvero buon viaggio, e torniamo ai nostri NEET. Non mi piace questo acronimo, comunque. Li chiameremo NET, come a tennis. Sì. Lo so, ma ci sono due accidenti. Ah, non lo so. Allora NEET, sì. E quindi niente, vabbè. Comunque, dicevamo, trovare nuovi percorsi per questi giovani che non sono né appunto in un percorso scolastico, né un percorso formativo, né un percorso lavorativo, ma aiutati. Però mi domando, bisognerà trovare anche degli ambiti intesi come dei luoghi fisici per fare questo, perché noi eravamo abituati tradizionalmente ai nostri luoghi fisici canonici di queste fasce di età, che erano appunto gli ambiti scolastici, le aule scolastiche, oppure i luoghi di lavoro. Anche nel caso di praticantato artigianale, quando uno va a imparare a fare l'idraulico, tanto per fare un esempio, è comunque un luogo, luoghi di scambio reciproco e di formazione. Inventarsi questi luoghi, facciamo dei grandi happening in piazza, per esempio, mi verrebbe da dire, anche questo è un luogo, oppure come inventarsi qualcosa che sia anche attraente, perché comunque stiamo parlando di, cioè non puoi organizzarla a convegno, perché sennò non ci vengono, perché No, ma senti, mi viene in mente una bellissima citazione di un filosofo tedesco che si chiama Peter Sloterdijk, che ha scritto un libro molto bello che si chiama Critica della ragione cinica. Sloterdijk dice una cosa così, dice: solo i padroni del vapore possono disturbarsi se invece di sbatterci per lo Stato, per la Chiesa o per l'esercito, le persone si dedicano all'amore, alla festa e alla creatività. Traducila in attualizzala, ecco. Tradotto, sì, tradotto significa questo: in realtà dire che l'alternativa di chi non ha né, non va a scuola, non lavora e non si prospetta e non si sta addestrando a nessun lavoro, dire che c'è un'alternativa significa non pensare a nuove scuole, a nuovi lavori, ma significa pensare a un tempo riempito precisamente da quello che dice Sloterdijk, un tempo in cui tu ti dedichi ad amare, a fare festa e a essere creativo. Quello che ti dicevi tu è un aspetto della creatività, cioè quando io dico che forse questi giovani si divertono, festa lo fanno, i luoghi di festa ci sono, no? L'amore, se gli capita, penso che amino e vengano amati. Quello che manca è la dimensione della creatività. Quindi non è che per forza devono essere luoghi, per forza deve essere un posto, chissà cosa può essere. Bisogna in qualche modo inventarlo, bisogna inventarli questi posti qui. Allora, appunto, si tratta di inventare nuovi modi di stare insieme, si tratta di inventare non tanto e non solo per fare festa o per amarsi, e non tanto e non solo per imparare a lavorare, a fare un lavoro, cercarlo, ma per determinare, per creare un mondo diverso, migliore, così eccetera. Per cui, cioè, come dire, si accettano idee, bisogna scatenare la creatività da questo punto di vista. Sono d'accordo sulla creatività, anche se uno dei dibattiti in corso più attuali, più cogenti, è proprio quello della creatività che non viene pagata, nel senso non tanto perché debba essere una merce, ma perché le persone poi appunto devono anche mangiare e sopravvivere. E era proprio di questi giorni un articolo su Nuovo e Utile che parlava del fatto proprio. Inizia così, si dice: perché il lavoro intellettuale va pagato? Metà dei lavori di oggi spariranno nel giro di 20 anni, a dirlo è una multinazionale dei mass media come AOL, American Online. I lavori nuovi saranno quelli che richiedono empatia, creatività, capacità di negoziazione, tutti campi che un'intelligenza artificiale, per quanto sofisticata, non riesce a padroneggiare. E quindi c'è un problema. Dice questo articolo: oggi in questo paese sembra strano retribuire il lavoro intellettuale creativo, cioè l'unico non automatizzabile, è l'unico importante per il futuro, anche per questo il lavoro intellettuale va pagato, ma per il momento non siamo su questa scia. Quindi la mia domanda è questa: come convincere, come può un giovane convincersi a intraprendere questo tipo di strada che oggi sembra non dargli un, anche questa, un futuro? Certo, no, ma il problema è che se tu il lavoro cosiddetto creativo lo paghi, lo corrompi. Io credo che il lavoro creativo sia impagabile, cioè appunto senza prezzo, al di là di ogni valutazione. Se tu il lavoro creativo lo paghi, lo devi valutare, cioè diventa merce inevitabilmente, a meno che, e qui c'è di nuovo la creatività, a meno che non si inventi un modo per separare nettamente l'attività che si dedica a fare i profitti necessari per vivere, per sopravvivere, e l'attività necessaria per ciò che è il mondo immateriale. Ora, una delle cose che non funzionano nel mondo di oggi è questa mescolanza tra sacro e profano di ciò che è materiale, di ciò che è immateriale. Per cui tutte le volte che le attività immateriali dell'uomo vengono materializzate, vengono corrotte, cioè vengono in qualche modo mercificate. Allora, per impedire questo, noi dobbiamo, appunto, la creatività consiste in questo. Secondo me bisognerebbe separare nettamente i giovani, i creativi, gli intellettuali, non dovrebbero chiedere di essere pagati, dovrebbero chiedere di avere la possibilità, senza essere pagati, di fare il loro lavoro intellettuale. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che non dovrebbero essere pagati per quello, ma che dovrebbero essere pagati per vivere, non per il lavoro che fanno. Perché il lavoro che fanno è impagabile. Ah, ecco, questo è, no, perché tu sai che domanda stava arrivando. Lo so benissimo, ecco. Lo so benissimo, ma io però l'ho prevista. Se uno scrittore se può mangiare il suo libro, ecco. L'ho prevista. Mi piace. Uno viene pagato per vivere, no? Perché così poi può fare altre cose che valgono molto di più, ma non si sa quanto valgono, non possono essere monetizzate o mercificate, perché sono immateriali, sono per esempio affettività, sono appunto creatività, così eccetera. E però la parte materiale in qualche modo è affidata al dono, no? Cioè, se a noi ci regalassero, senza chiederci niente, quello che è necessario per sopravvivere, noi potremmo finalmente vivere e il mondo si trasformerebbe. Bello, beh, un mondo che mi piace questo qui, eh? Anche a me. Pubblicità tra un po', ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo. Sì. Come vuoi fare lo stacco con questa riflessione importante? Sì, ha lanciato una bella provocazione che potrebbe sembrare super utopica, perché lo è. E quindi vorremmo anche i vostri commenti: 333-180-94-94 per i messaggi e 051-3464-58 per intervenire in diretta oltre la crisi. Per adesso, Billie Holiday, Blue Moon. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Mm-hmm. saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. The moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Vabbè, però uno, due, tre, prova. Ecco, così l'abbiamo fatta tutta. Bene, torniamo in diretta, pubblicità andata, stacco musicale andato, messaggio arrivato. E quindi Francesco è pronto a riceverlo. Conosco molte persone che in Olanda e a Berlino hanno potuto coltivare la loro arte perché disponevano di un sussidio per la sopravvivenza. So che venivano richiesti particolari requisiti e che il contributo non era continuativo, nel senso che era rinnovabile. Non ho mai approfondito, e chiedo scusa per l'eccessiva approssimazione, io mi sono semplicemente goduta la loro arte. Non navigavano nell'oro e avevano ridotto in molto dei loro bisogni, ma erano liberi di produrre qualcosa per il mondo e per sé. Quindi, domanda, l'idea del professore è utopica in un mondo con meno risorse come il nostro? Anzi, forse è rivolta a me, al fatto che io ho detto che la tua idea è utopica. O forse in un mondo in cui la ricchezza è di pochi? Stefania. Ma certo, se passa l'idea che quando le risorse di tanti sono poche e quelle dei pochi sono tante, e passa l'idea che ognuno si deve tenere le sue risorse e non pensare agli altri, è ovvio che nelle epoche di crisi può essere più un lusso, no? Tant'è vero che appunto in Europa può accadere, nei due paesi più ricchi, poi l'Olanda e la Germania, in definitiva, no? In cui c'è più. Ecco, però io credo che una cosa del genere converrebbe anche a quei pochi che hanno tante risorse e che vorrebbero anche tenersele, no? Non mi meraviglierebbe, anche perché è accaduto nel corso del tempo, che ci fossero delle persone molto danarose, con molti soldi, che un po' di questi soldi li dedichino ai giovani per consentire loro di essere creativi e di fottersene di guadagnarsi la vita, almeno per un periodo della loro esistenza. Questo, secondo me, sarebbe una cosa illuminata, perché migliorerebbe il mondo anche per i ricchi. Non lo migliorerebbe solo per quelli che sono creativi. Cioè, da questo punto di vista, penso, come dire, che potrebbe essere una cosa che è utopica in un mondo in cui chi ha i soldi se li tiene e chi non li ha gliele vorrebbe togliere, no? Ma in un mondo in cui chi ha i soldi si preoccupa di dare senso alla sua ricchezza e chi non li ha non ha solo il desiderio di averli a sua volta, ma vuole altro che i soldi di chi ce li ha, la felicità, la creatività, l'amore, la festa, così eccetera. In un mondo così non ci sarebbe neanche tanto bisogno di spostare le ricchezze. Basterebbe destinarle in una certa direzione. Quindi non credo che sia così impossibile, per esempio, se Bill Gates si è convinto di mettere un tot di miliardi della sua ricchezza per fare dei pozzi in Africa per i bambini, che un po' di ricchi si tassino per consentire a una generazione di passare una decina d'anni di creatività prima di poter trovare un lavoro decente. Magari, come dicevi tu prima, anche a sistemare il nostro territorio artistico, per esempio, di cui poi beneficerebbero anche. Certo, per esempio potrebbe essere, si potrebbero dedicare, per esempio, tanti giovani a sistemare il territorio, a mettere a posto il nostro patrimonio culturale, scavare dove c'è da scavare. E questo avrebbe una ricaduta positiva per tutti, ricchi e poveri, no? È ovvio che chi le risorse ce le ha le dovrebbe mettere a disposizione degli altri. Cioè, per esempio, come dire, potrebbe sembrare utopico, ma in realtà basterebbero delle forme approfondite di filantropia, no? Non credo che sia così difficile. In realtà devo dire che c'è chi ci sta provando, qua e là, per esempio Prada, mi viene in mente un esempio che è su questo filone di approfondire, oppure abbiamo l'esempio qua dell'apertura del MAST. Certo, abbiamo l'esempio a Bologna, abbiamo l'esempio di Isabella Seragnoli, che abbiamo l'esempio a Bologna di Isabella Seragnoli, che in definitiva va in questa direzione, cioè un po' dei suoi soldi li mette a disposizione della società per realizzare dei servizi che sono appunto gli hospice, per esempio, per i malati terminali, il polo oncologico che sarà fatto, la struttura per i disturbi alimentari, tantissime cose, il MAST che citavi tu, cioè in definitiva, tra l'altro, creando indotto posti di lavoro, diciamo, peraltro. Certo, il problema è che bisognerebbe, appunto, invece che fare soltanto dei servizi, bisognerebbe appunto destinare delle risorse specificamente a ogni generazione. Ecco, per esempio, se in ogni generazione si consentisse ai giovani di essere tranquilli per una decina d'anni dopo aver studiato, e gli si chiedesse dopo di impegnarsi, questo, come dire, a ogni generazione darebbe una possibilità di cambiare la vita, il mondo, così eccetera. Cioè, magari anche di inventarsi proprio quel qualcosa che poi dopo quei 10 anni, per dire, o 15, li porta fino alla fine della vita. Certamente, no, ma poi appunto si innescherebbe un processo virtuoso di solidarietà, cioè per cui tu non è che, cioè come dire, da un certo punto di vista anche la ricchezza si giustificherebbe, perché non sarebbe solo al servizio del profitto individuale, no? E anche il fatto di fare profitti si giustificherebbe, perché se uno non si è arricchito e non ha fatto profitti, non può dare niente agli altri, no? Bene, andiamo in musica? Pronto, Michael Brecker. Pronto. Via. Piovono messaggi, caro Francesco. Allora, cominciamo da Massimo, che è più semplice, la sua richiesta, che ci scrive dov'è? Pensieri e concetti estremamente interessanti. Domanda: dove insegna il professore che le mando mia figlia ad assimilare concetti umanistici? Questo ci scrive Massimo e lo ringraziamo. Allora, il professore insegna alla facoltà di medicina dell'Università di Bologna psicologia clinica e insegna agli infermieri anche le ostetriche. Quindi se tua figlia farà l'ostetrica, ti becca. Se farà l'infermiera, se farà il medico, probabilmente potrebbe venire. Però in ogni caso se possiamo fare qualcosa, noi abbiamo anche un centro di documentazione dove si può venire e anche, come dire, avere un contatto culturale tra virgolette anche di un altro tipo, quindi... Beh, diciamolo, non lo diciamo mai tra l'altro. Allora, è l'associazione Rivivere in via Giorgio Ercolani 3 a Bologna, telefono 055 051 55 23 14, mail info@clinicacrisi.it, sito www.clinicacrisi.it. Tra l'altro c'è un corso in questo momento che va il lunedì, quindi... Certo, adesso in questo momento stiamo facendo una serie di incontri che si chiama Scuola di Vita Quotidiana, dove tocchiamo tutte queste... Abbiamo fatto un incontro sulla perdita dell'amore, uno sulla diversità, come comunicare nella diversità, il prossimo sarà sulla solitudine, poi ci sarà uno sull'invidia e così via. Fino per tutto l'anno, circa ogni mese. Se si va sul sito si può informare e quindi anche figli, nipoti, padri, nonni possono venire. Anche perché non ne parliamo mai, quasi per un eccesso di zero. Siamo riservati. Allora, ci scrive lo storico dell'arte, così si definisce, o la storica dell'arte, che dice: ci vorrebbe un cambio di mentalità nelle persone facoltose. A parte pochi filantropi, a cui aggiungo Patrizia Rere Baudengo di Torino, ricordiamo, spesso considerano i creativi dei fancazzisti. Bisognerebbe che le persone capissero il valore che questi le persone portano nella società. Non abbiamo solo bisogno di mangiare, all'umanità servono anche i poeti. Questa è una citazione di Leo Lionni, che visto che tu fai sempre citazioni, anche la nostra ascoltatrice ci ha colpito con la sua citazione. Ecco. Quindi questo è... No, talvolta che i creativi talvolta siano fancazzisti non è del tutto falso. Non è del tutto falso, anche perché se uno è creativo si sa alla fine del processo creativo, perché uno può pretendere di essere creativo e poi non esserlo, cioè in definitiva la creatività è anche molto aleatoria, molto, per cui cioè, come dire, bisogna scommettere sulla creatività. Se per esempio perdurasse la mentalità attuale per cui tu prima devi dimostrare di essere creativo e poi ti sostengono, non ci sarebbe speranza, perché non si sa mai se ci riuscirai o meno a essere creativo. Quindi bisognerebbe aiutare i creativi nonostante il loro reale fancazzismo. E qui ti butto paro paro il messaggio di Andrea, che non ci ha abbandonati, è sempre con noi e ovviamente sono sempre molto forti i suoi messaggi, e dice: buongiorno, sentire la fiaba dei paesi che danno il sussidio come se ciò fosse dovuto divinamente, mentre nel mondo si muore di fame, roba da matti. E quindi ovviamente lancia la sua provocazione del mercoledì, che noi accogliamo e condividiamo anche per certi versi, però voglio dire, da qualche parte bisognerà pure cominciare. Allora, c'è qualcuno che ha detto che non è vero che in principio era il verbo, in principio era la fame. In principio era la fame, d'accordo? Però c'è anche qualcun altro che ha detto che non si vive di solo pane. Allora, il problema è verissimo che ci sono posti in cui sarebbe più urgente dare i soldi per fare in modo che la gente non muoia di fame, è verissimo. Però è anche vero che se non diamo i soldi ai creativi, nessuno li darà a quelli che muoiono di fame. Cioè, se il mondo prima non si trasforma in un mondo migliore, quelli che muoiono di fame moriranno di fame. Quindi non è che sono in contrapposizione le due cose, non sono assolutamente in contrapposizione, anzi credo che una sia la condizione dell'altra. Cioè, per dare i soldi gratis, senza avere niente in cambio, ai 2 miliardi di esseri umani che vivono con 2 euro e mezzo al giorno, bisogna che prima il mondo diventi un mondo rispettoso nei confronti dei creativi, altrimenti nessuno glieli darà. Quindi cioè come dire, è miope, credo, mettere in contrapposizione il sostenere chi è creativo rispetto al sostenere chi invece muore di fame, perché è verissimo che in principio era la fame, ma la fame non è solo di cibo, perché se la fame fosse solo di cibo saremmo animali, saremmo ancora allo stato di natura, e nello stato di natura, dove la fame è solo di cibo, vince sempre solo il più forte. E io vorrei aggiungere un'altra cosa a proposito della tua citazione, in principio era la fame, perché per motivi di lavoro eccetera, eccetera, devo dire che io ho visto tra l'altro esempi di pezzettini di mondo diverso proprio nascere da quei luoghi dove il problema era la fame di cibo. Si sono trovate soluzioni creative di sopravvivenza, condivisione, solidarietà, che sono esattamente le cose che stai dicendo tu. E forse noi dovremmo più spesso guardare a questi esempi per coglierne il valore e applicarli, ovviamente adeguandoli alla nostra realtà. Per cui si parlava prima fuori onda di Genova per motivi vari, e devo dire che io in quegli incontri con persone di tutto il mondo, già allora c'erano degli spunti interessantissimi di esperimenti di convivenza diversi rispetto a quelli decretati, quindi mi sento di... E Andrea ci saluta dicendo: il prete sa che il bisogno fa schiavi, non uomini, arte come espressione umana, non come lavoro. È vero che senti Andrea, non fare le citazioni però come ti conviene a te, perché il bisogno anzi anche aguzza l'ingegno, il bisogno, anche io posso fare una serie di citazioni, non citare solo quello che ti conviene, è verissimo quella cosa lì che dici, però non è tutta la verità. Il bisogno, se l'uomo restasse schiavo del bisogno, non ci sarebbe speranza per l'uomo. La speranza per l'uomo è che si elevi al di sopra del bisogno, non se ne occupi più perché l'ha superato e si dedichi ai suoi desideri. E io direi che con questa frase possiamo rimanere in riflessione e andare quasi al termine, cosa dici? Sì, non ci possiamo avviare al termine, magari avvicinando anche il microfono mentre parliamo. Sì. Ah, scusami, oggi se no, non ci sto con... Sembra che stai trasmettendo dalla studio di registrazione. Ma più o meno, più o meno, sto... Vabbè, abbiate pazienza. Intanto ringraziamo Andrea, tutte le altre ascoltatrici e ascoltatori che hanno partecipato a questo nostro Oltre alla Crisi. Stiamo perdendo anche il conto delle puntate, fra l'altro. Chissà quale puntata siamo arrivati. Oddio, sa che è la 17, può essere? Ma porta mi bene. Mi sa che è la 17. Se 17 è un numero che mi piace, porta anche bene. Ce ne saranno tante altre, ovviamente, tra una settimana. Quindi supereremo anche la 17, per chi per caso non portasse bene il 17. Ma no, porta benissimo il 17. Dai, su, non siate superstiziosi, vinciamo questi limiti. No, io ho sempre avuto grande stima sia per il 13 che per il 17. Visto che allora ho indovinato. No problem. Allora, Francesco, diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Ringraziamo tutti quelli che e tutte quelle che ci hanno aiutato in questa trasmissione. Vedremo di scovare l'argomento per la prossima volta. E mandateci sempre più messaggi. Esatto, io ricordo anche la mail, perché ci potete mandare messaggi anche se vi vengono in mente riflessioni a posteriori. Mandatecele, perché noi poi le recuperiamo e le riutilizziamo per suscitare dibattito e confronto la prossima puntata. Quindi amici di Rivivere @gmail.com. Ci sentiamo mercoledì, buona giornata. Ciao. Ciao, ciao. oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.